Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto Mondo. Where is it? Where is this great plan to replace Obamacare? They've had 10 years to do it. There is no plan. They've never had one. Instead, they've attacked the Affordable Care Act at every turn. Ha provato a metterci Obama quell'energia che dicevamo ieri, sì. Joe Biden a volte non ha. Tra l'altro, Giulia, a Philadelphia, che è nello stato della Pennsylvania, che ho scoperto essere veramente lo stato che forse deciderà La Pennsylvania, ricordiamocela questa cosa qua, poi vedremo l'esito. Se Giulia aveva visto lungo. E infatti anche Trump ieri era in Pennsylvania. E qui Obama dice, perché naturalmente l'Affordable Care Act, cioè detto anche Obamacare, è stato introdotto appena lui è diventato presidente, quindi 8 anni di presidenza Obama, in cui i repubblicani lo hanno sempre osteggiato, e lui dice sono 10 anni in tutto in realtà che i repubblicani dicono di voler cambiare per sostituirlo perché hanno un altro grande piano, ma in realtà noi di questo piano non sappiamo niente. Continuiamo a sentire gli attacchi all'Obamacare e dopo nel proseguio di questo intervento Obama dice: come si può pensare di togliere l'assistenza o anche solo di modificare un'assistenza sanitaria che ha migliorato le possibilità per le persone che non l'avevano e nel mezzo di una pandemia? È un argomento molto semplice, se volete, però quest'idea dell'assistenza pubblica fornita in questo modo cozza proprio con alcuni principi base dei repubblicani. Però è vero, i giornali sottolineano oggi che Trump ha continuato nelle scorse settimane a dire che avrebbe presentato in questi ultimi giorni di campagna elettorale questo piano. In realtà per ora nei comizi sta parlando un po' d'altro. Giulia, che altri? O se ci fai sentire subito Trump? Ma sì, come sentiamo preferisci. Trump, che ieri appunto sì. Era in Pennsylvania e ha parlato di tante cose. Ha promesso che mai e poi mai modificherà il secondo emendamento della Costituzione americana, che è quello che permette agli americani di possedere armi. Ma sentiamo le sue parole. And Joe Biden will ban fracking and abolish Pennsylvania energy. How many times did he say it? You're fracking and mining industries will be outlawed. Cos'è che ha scatenato questi bu del suo pubblico? Questo è un altro grande tema importantissimo in Pennsylvania, che è quello del fracking, quella tecnica di estrazione del petrolio che gli ambientalisti considerano molto pericolosa, ma che ha reso la Pennsylvania negli ultimi anni molto florida dal punto di vista economico. L'industria quindi del fracking e anche dell'estrazione dalle miniere di alcuni carburanti, che naturalmente in un piano di emissioni zero non dovrebbero più esserci, come il carbone, ha reso lo stato abbastanza florido. E sappiamo, ne abbiamo già parlato, e tra l'altro Trump ha anche proiettato un video in cui vengono montati tutte le occasioni in cui Joe Biden o Kamala Harris hanno detto che vogliono interrompere il fracking, e ha appunto detto alla platea: sappiate che Joe Biden vuole rendere illegale appunto il fracking e il mining, cioè l'industria dell'estrazione mineraria delle miniere. Non è esattamente così, lo abbiamo sentito, sicuramente sarà un tema del dibattito di questa sera che si svolge a Nashville nel Tennessee. Ne parlano naturalmente tutti i giornali, anche USA Today, c'è un articolo della giornalista che aveva moderato il dibattito tra i due candidati vicepresidenti, ancora una volta diviso in 6 segmenti: Covid, famiglie, questione razziale, climate change, sicurezza nazionale e leadership. 15 minuti ogni segmento, 2 minuti a testa, in cui può parlare uno dei due candidati e l'altro avrà il microfono spento. E questo, insomma, vedremo se il questo... famoso microfono che sì, era tra l'altro stato... su questo ne parlano molto, ne parla anche Washington Post. I repubblicani hanno molto protestato perché di questi 6 temi non c'è la politica estera, e invece Trump contava di parlare dei suoi successi in politica estera, che lui identifica con i 2 accordi in Medio Oriente di certo. Normalizzazione delle relazioni di Israele e poi anche del suo atteggiamento verso la Cina. Di questo parla anche Financial Times, perché in realtà la Cina, e sono andata anche a vedere China Daily, è in fase 3 per ben 3 vaccini. La fase 3 sì. È quella che deve, una volta finita, dimostra l'efficacia e, la, e il fatto che su non decine sia... decine di migliaia di persone, esatto, che vengono dopodiché testate, si può passare alla, alla distribuzione, alla produzione, alla distribuzione, alla popolazione. E il Financial Times dice che la Cina mette in grano una marcia in più in quella che viene chiamata la Vaccine Supply Diplomacy, cioè la Cina, al contrario di Trump, ha già annunciato che con la forza che, su cui può contare produttiva, metterà il vaccino a disposizione di tutti i suoi vicini asiatici. E anche dell'Africa, c'è un investimento anche sull'Africa, sull'America Latina, sono stati dati dei soldi. Certo, la mossa in Africa è, naturalmente si inserisce in questa politica di colonizzazione economica che di fatto la Cina ha fatto in Africa, e quindi il fatto che invece in America continuino a esserci alcuni incidenti di percorso nella sperimentazione dei vaccini, in realtà forse è meglio per Trump che non salti fuori il tema Cina, perché c'è tuttora in corso una grande guerra commerciale tra i due paesi. Insomma, credibile che sia o no questo annuncio della Cina, è questa la situazione, no? Cioè abbiamo un'America con America First anche per quanto riguarda i vaccini, invece una Cina che si propone come grande potenza in grado di dare il vaccino ai paesi più poveri. La diplomazia dei vaccini. È uno scenario interessante. Allora, che altri titoli invece abbiamo? Devo dire, mi ha molto colpito perché sui giornali americani c'è la notizia, naturalmente trapelata da questo, estrapolata da questo documentario sul Papa, che abbiamo sentito tutti, e sulle prime pagine anche dei nostri giornali, naturalmente questa apertura alle unioni civili di persone dello stesso sesso e al loro diritto di farsi una famiglia, di avere una famiglia. La cosa che insomma colpisce è che non è la foto di apertura dei giornali americani, ma lo è dei due giornali economici, Wall Street Journal e Financial Times. Effettivamente è una svolta nella diplomazia, questa volta non dei vaccini ma del Vaticano, che evidentemente tutti considerano che insomma avrà molti altri effetti collaterali, magari persino anche un effetto, non so se positivo o negativo, su queste elezioni, perché tra i sostenitori di Trump ci sono dei cattolici, tra cui naturalmente la giudice, che proprio oggi ci sarà un primo voto sulla sua nomina alla Corte Suprema, sono cattolici con posizioni assolutamente contrarie a qualsiasi apertura verso, non vogliono neanche sentir parlare di unioni civili, proprio hanno un'avversione per gli omosessuali. Allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo, qualche titolo di giornale europeo? Sì, beh, naturalmente nel Regno Unito continua l'emergenza. In questo caso c'è un provvedimento che, se pensate a quello che è successo qui in febbraio e marzo, è molto sensato. Cioè tutte le persone che lavorano nelle case di riposo non possono fare turni in posti diversi. Sappiamo che per esempio in Italia è successo che appunto il virus cammini sulle gambe di queste persone che si spostano di struttura in struttura. Quindi questo è un primo divieto, e poi c'è anche l'annuncio che farà oggi il cancelliere dello scacchiere Sunak di un altro pacchetto di aiuti, di stimoli, perché ormai Manchester, che purtroppo, che lo voglia o no, sarà sottoposta al lockdown, potrebbe succedere lo stesso a Sheffield, potrebbe succedere lo stesso all'intera Scozia. Insomma, nel Regno Unito, mentre qui ancora siamo un po' così, dubitiamo, nel Regno Unito l'ipotesi lockdown, che non ha mai fatto seriamente, interamente, è sul tavolo di tutti. Sì, dove i contagi tra l'altro nel Regno Unito non sono tanti di più che in Italia, nella seconda ondata, siamo paragonabili. Ti ricordi, abbiamo avuto ospite anche qui mia nipote che vive a Londra, ieri parlavo proprio con mia sorella e mi diceva il problema è che in Italia si parte da un sistema sanitario di base che comunque con tutte le sue debolezze è ancora ottimo. Nel Regno Unito invece, ne abbiamo parlato tanto anche l'anno scorso, il sistema sanitario nazionale è in uno stato disastroso da almeno 10-15 anni a favore del settore privato, quindi lì insomma la situazione è complicata da questo. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo naturalmente domani con l'ultima puntata della settimana, tra poco con l'aggiornamento alle 14. Ciao, buona giornata. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.